Giusto un unico inciso e poi entro nel mezzo delle dichiarazioni agghiaccianti dei nostri politici, ovvero loro dicono che lo sciopero crea disagi, ma non hanno mai detto che i loro tagli alla spesa sociale, al trasporto pubblico e ai diritti dei lavoratori creano disagi per la maggioranza della popolazione che appunto è lavoratrice. Forse ecco, bisogna ribaltare e guardare in faccia la realtà. Quello che voglio dire è che sì, il tentativo di adesso mettere mani alla legge sulla rappresentanza, ovvero dire soltanto che i sindacati rappresentativi possono convocare gli scioperi o comunque la mobilitazione, ovviamente, e non lo neanche lasciano troppo nell'ombra, vuole intervenire proprio sul diritto di sciopero. Questo che significa? Innanzitutto, da un lato si vede tanto qual è la narrazione in qualche modo mistificatrice, tutti parlano del trasporto e nessuno ha detto che questo realmente era uno sciopero prima ancora che del trasporto pubblico, della logistica, di cui abbiamo parlato tantissimo e che è davvero all'avanguardia dello sfruttamento oggi, però ovviamente non fa comodo, no, andare a dire grandi colossi che poi eludono le tasse in Italia su Amazon, che stanno sfruttando e fanno profitti sulle spalle e la pelle dei lavoratori. Allo stesso tempo però è un'arma a doppio taglio, perché io vorrei dire che la rappresentanza, quando nelle imprese nascono i sindacati gialli, ovvero quelli fatti apposta per firmare dei contratti a favore delle imprese e contro i diritti dei lavoratori, quindi diciamo sfavorevoli in termini di salari, di turni, in qualche modo di inquadramenti e mansioni, nessuno alza il dito dicendo che c'è un problema di rappresentanza, che i sindacati nascono per difendere i lavoratori, non le imprese. Invece lo si fa quando si vuole tentare di sottrarre, diciamo, ai sindacati più piccoli un pezzo molto conflittuale e molto importante oggi nella lotta degli operai, dei lavoratori in generale, che non appartengono in qualche modo ai confederali, cui su quei settori gli accordi si riescono a raggiungere. Soprattutto la mobilitazione oggi non è più vista neanche come una grande forma di lotta, quando invece in Italia avremmo spazio e margini, ma soprattutto il dovere, di data la realtà, di proclamare uno sciopero dopo l'altro. Anzi, io penso che di fronte a un tentativo del genere, soprattutto con un sindacato anche confederale che si è visto sbattere in faccia l'arroganza prima del governo e poi del Parlamento sui voucher, credo che indire più di uno sciopero generale oggi è quello che portare la gente in piazza tutta, dagli immigrati che lavorano nella logistica, agli scontrinisti, agli studenti dell'alternanza scuola-lavoro. Allora sì, prima facciamo le mobilitazioni, prima creiamo un'unità di lotta e poi andiamo a giocare i rapporti di forza, non più magari sbilanciati col governo e col Parlamento, perché è ovvio che anche la legge sulla rappresentanza in qualche modo chiude il cerchio di quello che è un attacco duro alla democrazia dei lavoratori, dei cittadini. E questo poi di fatto si accompagna a tutte le altre leggi contro il dissenso, la contestazione, i fatti che abbiamo visto ieri a Trino, degli interventi a mano quasi armati, di manganelli, della polizia contro la gente che fa gli aperitivi. Però ho capito che non ci volete dare gli aperitivi, lo stesso che vediamo contro gli immigrati al Baobab qua a Roma. Credo che siano tutti esempi di un'unica politica che è molto violenta e repressiva, e che poi è la stessa delle parole di Farinetti, che prova a tacciare con violenza e intimorire chi alza la testa. Ecco, ridurre la agibilità sindacale di piccoli sindacati, che vuol dire anche ridurre poi la possibilità anche di scoprire forme di paraschiavismo che ci sono in Italia. Abbiamo parlato della logistica, parliamo del distretto delle carni ad esempio a Modena, e Mondo Convenienza, Ikea, insomma tante situazioni che sono emerse grazie a, come dire, le ramificazioni più piccole però di sindacati, e anche le lotte più dure, perché altrimenti, se non avessero fatto quelle lotte anche forti con il blocco delle merci, probabilmente non saremmo a conoscenza di quello che avviene in quei settori. Quindi andare a ridurre il diritto di sciopero è veramente un problema, anche se forse il dibattito attuale, come dire, si svolge sul pubblico in realtà. In che senso? Se il pubblico impiego, pubblico come cittadino? Sì, per no, come pubblico impiego, almeno penso che quello che intende Del Rio, che intende Damiano o anche Ichino riguardi il pubblico impiego. In realtà non è neanche più pubblico impiego, perché il trasporto pubblico è ormai privatizzato, se ci pensate, no? Quindi in realtà è tutta una contraddizione in termini, hanno privatizzato tutto. Del Rio, tra l'altro, nelle dichiarazioni che fa dice che i lavoratori se la prendono con le privatizzazioni senza capirle. In realtà i lavoratori e i cittadini sentono veramente sulla trasformazione della loro vita cosa significa non avere gli autobus, cosa significa aumento dei prezzi, cosa significa non avere strutture sanitarie. Quindi non è soltanto il pubblico, ovviamente. Per esempio, questo è soltanto, diciamo, uno dei tanti tranelli. Il contratto trasporti logistica è lo stesso, di conseguenza non andiamo verso, diciamo, una in qualche modo norma che vincola soltanto, no, come tu per esempio contro le assemblee del Colosseo, i servizi pubblici, ma interviene a gamba tesa su molti altri settori, di cui appunto alcuni come la logistica ma anche il trasporto sono abbastanza conflittuali, perché davvero hanno vissuto tutta questa trasformazione, esternalizzazioni, appalti, cooperative, e in qualche modo abbattimento dei costi attraverso il non riconoscimento delle tutele e dei diritti. Quindi in realtà secondo me è proprio generale, cioè loro prendono un esempio, no, e quindi agitando un po' lo spauracchio del servizio pubblico, e poi sono i primi a tagliare per intervenire un po' su tutto. Ecco, delle due forse bisognerebbe estendere il diritto allo sciopero, visto che c'è tutta la fascia precaria della popolazione che non ha questo diritto, perché altrimenti rischia il posto. No, esattamente, non ci sono proprio le garanzie, i diritti sindacali, penso alle false partite IVA, i collaboratori, ma anche i voucheristi, così come i tirocinanti, così come gli stagisti. Cioè noi abbiamo una fascia crescente, una porzione crescente di lavoratori, no, appunto, che sono i precari, che non hanno già diversi diritti sindacali, ma non possono neanche partecipare alle assemblee sindacali. Certo. Quindi, voglio dire, siamo davvero in una situazione, in un momento e contesto, da un lato proprio il non riconoscimento dei diritti, e dall'altro l'intenzione di ridurli in maniera in qualche modo violenta, no? Perché poi si tratta di repressione.